Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e nuovamente saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parliamo buone notizie in qualche modo, perché quando nasce un bambino è sicuramente una bella notizia. E poi se anche il governo in qualche modo aiuta le famiglie, perché no? C'è una novità. Sì, c'è una novità e una buona notizia, proprio come hai anticipato tu Francesco, riguarda proprio i bambini che sono nati o adottati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e riguarda proprio un assegno da 960 euro per persone che hanno i requisiti per poter ricevere questo bonus bebè, e quindi che può dare sicuramente un aiuto o una boccata d'ossigeno alle famiglie che insomma da un lato sono in difficoltà e dall'altro per il nostro paese che magari in fattore di nascite quanto agli ultimi posti rispetto alla media europea. Però certamente un assegno che partendo da 960 euro può arrivare addirittura a 1920, per chi scende sotto i 7000 euro certamente possiamo dire oggi è una buona notizia. Ecco, la cosa è che il bambino deve essere nato dopo il 1 gennaio, quindi adesso ahimè, se qualcuno ha avuto la nascita di un bimbo che ne so il 29 dicembre del 2014, invece resta a bocca asciutta. Come sempre le cose, no? Diciamo sempre si possono fare meglio. Certamente questa è una buona notizia, però come hai detto e anche noi un pochino la pensiamo come te, poteva essere allargata, perché non crediamo che per pochi giorni, poche settimane o alcuni mesi si possa discriminare in questo modo, se mi passa il termine, i bambini del 2014 rispetto al 2015. Comunque è un importo molto importante, perché soprattutto per chi, abbiamo detto, ha un reddito ISEE sotto i 7000 euro addirittura può arrivare a 1920 euro all'anno, quindi un assegno che può valere fino a 160 euro al mese, e certamente soprattutto per i neo genitori può dare un grosso aiuto. C'è un iter da dover praticare per poter ricevere questo assegno, perché non è proprio automatico, bisogna accertare il requisito ISEE, presentare una domanda per tutta la durata del beneficio, e dopodiché l'INPS a tempo 15 giorni per mettere a punto il modello attraverso cui inviare la domanda per ricevere l'assegno. Il genitore poi farà una semplice autocertificazione e in possesso dei requisiti sarà l'INPS a verificare la dichiarazione e inviare l'assegno. In questo caso io dico sempre fare molta attenzione quando si fanno questo tipo di autocertificazioni, perché tanti poi, un po' per malinformazione, un po' anche per furbizia, tendono a semplificare un po' la procedura ritenendo che essendo un bonus bebè gli spetta di diritto. No, purtroppo la cifra varia in funzione, come abbiamo detto, del reddito ISEE, e non si ha diritto se si superano certi parametri. Diversamente, come è capitato in passato, fare autocertificazioni che poi non sono veritiere alla prova dei fatti può comportare dei problemini grossi, anche perché diventerebbe un atto pubblico falso di fronte alla pubblica amministrazione, e quindi soldi pubblici che si ricevono quando non si è dovuti, e quindi si può sfociare anche in un procedimento poco simpatico. Quindi la pratica è semplice, ma vale la pena avere un po' di pazienza e verificare i requisiti. Ecco, diciamo che la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi è valida. Sono praticamente 80 euro o 160 euro al mese per i primi 3 anni. La cosa è questa, che è interessante, che la cosa dura per 3 anni, quindi non è limitata a uno spot, i famosi 1000 euro che molti ricorderanno di Berlusconi, per esempio quando una decina d'anni fa, no? Sì, hai ragione di ricordare a tutti gli ascoltatori, vale per 3 anni ed ricordiamo che l'assegno per chi arriva a decorrere del giorno della nascita è necessario presentarlo entro 90 giorni da quando si è verificato l'evento o dalla pubblicazione del decreto, perché se la domanda viene presentata fuori da quel termine, l'assegno partirà soltanto dal mese di presentazione della domanda e quindi si rischierebbe di perdere gli assegni precedenti. E quindi, care mamme che state aspettando un bambino e che presto nascerà o è nato da poco, mettetevi in moto, informatevi per avere, insomma, questo bonus bebè, che mi sembra sicuramente un bel aiuto per le famiglie. Grazie al presidente Carlo Garofolini per averci informato di questa ulteriore possibilità. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico, che ritroveremo con noi su queste frequenze la prossima settimana. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.